Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Si dice che certi treni passino una volta sola, che a volte perdere un'occasione voglia dire perderla per sempre. Ma succede invece che una porta in faccia possa essere la svolta del destino. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati mescola realtà e finzione, verità e messa in scena. Perché così è la vita stessa, che costantemente ci fa alternare momenti in cui siamo attaccati alla quotidianità e momenti di evasione, come succede con i sogni. E per rimanere in tema, l'incontro di oggi non è un incontro fisico, ma un incontro mediato da uno schermo. Un incontro di carriere che vive la contemporaneità di un attimo solo attraverso un monitor. Ma visto come è andata al primo protagonista di oggi, il fisico avrà modo di imporsi più tardi come una parte importante per lo sviluppo della sua storia. Infatti è oggi considerato uno degli uomini più belli del pianeta, un divo amato dalle donne di tutto il mondo e celebrato dai mass media. Il suo nome è Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey è un grande attore, un'icona sexy, un testimonial per l'alta moda. E la rivista People, celebre per le sue classifiche di costume, nel 2008 l'ha eletto l'uomo più sexy dell'anno. Un giudizio che senza dubbio lo lusinga. È una cosa che fa piacere, è impossibile negarlo. Sono ipocriti quelli che dicono che non conta. Fa piacere se ti considerano bello e ti aiuta. Eppure Patrick non è sempre stato così sicuro di sé. Anzi, tutta questa attenzione su di lui è arrivata di colpo, come un fulmine a ciel sereno. Anche perché lo statuario Dempsey da piccolo era il classico brutto anatroccolo. Patrick, classe 1966, nasce a Lewiston, città universitaria della provincia americana, stato del Maine. Tutto intorno montagne, spesso innevate e mai un caldo torrido, nemmeno nei mesi estivi. Lewiston non offre molto ai ragazzini, giusto qualche sala giochi e per gli studenti qualche pub. Ma neanche per gli adulti c'è da fare granché. La noia prende il sopravvento e il sabato l'unica possibilità sembra essere andare al centro commerciale a passeggiare tra gli scaffali con un carrello carico di pollo fritto, patatine e birra. Dempsey se lo ricorda bene. Non era molto eccitante. Noi sognavamo prima o poi di andare via. Scappare dalla realtà non è solo un capriccio. Diventa una vera e propria esigenza per Patrick, cresciuto in una famiglia di origini irlandesi piuttosto chiusa, dedita al lavoro e con un forte spirito di sacrificio. Lui è un bambino occhialuto e timido che sta sempre in un angolo e viene preso in giro, deriso e umiliato. Anche per un motivo specifico. A scuola deve farsi aiutare da un insegnante di sostegno perché ha un problema importante, la dislessia, che il dottor Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile, spiega così. Ma la dislessia è una difficoltà di imparare a leggere. Sono bambini che hanno intelligenza normale, hanno avuto uno sviluppo assolutamente normale, non hanno nessuna difficoltà sul versante psicologico, eppure ciò nonostante non riescono a imparare a leggere. Patrick si chiude nella sua camera e prova e riprova a leggere. Ha un libro per bambini piccoli in mano, di quelli con tante figure e poche scritte, e lo studia parola per parola, tenendo il segno con il dito fino allo sfinimento. A volte si addormenta con il libro in braccio. Fa molta fatica, eppure non si arrende. Prima o poi, in cuor suo, lo sa, supererà questo ostacolo. Intanto trova una soluzione per sopravvivere: dedicarsi allo sport. Ripiegare sull'agonismo e dimostrare che anche lui vale qualcosa. I risultati non tardano ad arrivare e Patrick vince il campionato locale di sci, il primo successo nella lenta strada del diventare grande. Patrick, grazie allo sport, fiorisce, elimina gli occhiali, comincia ad accettarsi un po' di più, ma continua a non sentirsi a suo agio con il suo corpo e, come gli hanno insegnato, prende la questione di petto, iscrivendosi a un corso di teatro. È lui stesso a ricordarlo. Mi sembrava che recitare fosse il modo giusto per esorcizzare le mie paure. Il teatro per lui è un aiuto fondamentale. D'altra parte, siamo tutti in scena nella vita. L'intera esistenza di ognuno si svolge su un grande palcoscenico che è la società. Usiamo delle maschere per confrontarci con gli altri. Creiamo dei veri e propri personaggi che corrispondono ai nostri molteplici ruoli: moglie, marito, padre, amante, sorella, maestro. Dempsey, quando inizia a recitare, è un adolescente. E non si pone certo queste grandi questioni filosofiche. Semplicemente pensa che il teatro, l'esibizione di fronte a un pubblico che sta seduto ad ascoltarti, possa aumentare la sua autostima eternamente messa in discussione. La teatroterapia, che recentemente si è fatta conoscere anche nelle scuole, gli dà ragione. Si tratta di una pratica che trasmette sicurezza in modo delicato, senza giudizio, attraverso il movimento. Lo sentiamo dalle parole di Walter Orioli, autore del testo Il gioco serio del teatro. Prima del teatro viene il corpo, quindi il nostro corpo e il suo stare in scena nella vita. La terapia avviene attraverso il corpo. È il corpo che decide quando devo cambiare. Alla prima lezione, Patrick, al centro del palco da solo con i compagni seduti intorno a lui, non riesce a dire una parola. Addirittura lo prende quasi un attacco di panico. D'istinto, reagisce prendendo tre palline lasciate a terra dopo il corso precedente e improvvisa dei numeri di giocoleria. In un attimo scatta l'applauso. Patrick adesso si è rilassato e finalmente si sta divertendo. La cosa più importante, come ribadisce Orioli, la spontaneità del gioco, ma c'è anche la serietà di giocare, perché un gioco deve essere un gioco serio, deve avere un suo setting, delle sue regole, altrimenti il gioco non avviene. Patrick sente che così si sta prendendo cura di sé, che sta crescendo. Ne prende coscienza man mano che passano i giorni. Ma quello che era cominciato come un gioco per aumentare la sua sicurezza, adesso sta diventando qualcosa di più. Patrick si accorge che recitare gli piace. Non solo, è molto dotato, coinvolgente, istrionico, capace di improvvisare con risultati inattesi. E un giorno bussa alla porta la sua occasione. Camerino della grande stanza vicino al palco, dove i ragazzi si cambiano tutti insieme tra battute da caserma e provocazioni goliardiche. Patrick, come al solito, sta guardando fuori dalla finestra verso il grande parco. Ha sempre attirato la sua attenzione. Forse è l'unica cosa di Lewiston, alla sua città, che lo cattura davvero. Si tratta del giardino di una struttura ospedaliera dove il viavai di medici e pazienti è costante. Improvvisamente, i pensieri di Patrick vengono interrotti dall'insegnante di teatro, che davanti a tutti lo fa scendere dalle nuvole con una notizia sconvolgente. Un talent scout l'ha notato al corso e gli vogliono dare la parte in un film. Patrick non crede alle sue orecchie. Era un giorno incredibile. È arrivato tutto così all'improvviso. E adesso il gioco si faceva serio. Mi volevano per un ruolo vero. Si tratta del film Catholic Boys, Alleluia, che vedranno in pochissimi. Ma per Patrick ormai è una questione di principio, una sfida che deve superare prima di tutto per se stesso. Deve farcela ora che ha capito che la sua strada è fare l'attore. È maturo, responsabile, più adulto della sua età. Forse per questo, a soli 21 anni, sposa contro tutto e tutti un'amica di sua madre, di quasi 30 anni più grande di lui. Ha una determinazione che la conduttrice americana Ellen DeGeneres, sua grande amica, racconta così. Innanzitutto io sono una sua fan fin dall'inizio. Ho visto anche il suo primo film. Io lo conosco. Lui è bravissimo, serio, professionale. Si vedeva che avrebbe avuto successo. Tutto meritato. E infatti la fama sembra essere dietro l'angolo. Patrick adesso, grazie anche ai consigli di una moglie che lo accudisce e gli fa da manager, può fare il grande salto. Diventa un playboy in prova. In un film che sembra raccontare la sua storia, un adolescente, stufo di essere trattato male dai compagni, stipendia la più bella ragazza del college perché si faccia passare per la sua girlfriend e la sua reputazione sale alle stelle. Cindy's hot, Ronald's not, but he's got a plan that could change all that. I wanna rent you. Rent me? Yeah. You pretend you like me? La fantasia e la realtà continuano a rincorrersi e si fondono una nell'altra. Can't Buy My Love, tradotto in italiano con Un playboy in prova, è un assaggio di quello che il destino ha in serbo per lui. I'm just can't buy. I don't care too much for money, money can buy me love. Il film Playboy in prova è un discreto successo che fa ben sperare l'ottimista Dempsey. Eppure dopo l'uscita, per interi giorni, settimane, mesi, non riceve alcuna telefonata. Nessuna offerta di lavoro, neanche una proposta di provino, nulla. E in più arriva l'inevitabile divorzio con una donna di 30 anni più grande che vuole una vita decisamente diversa dalla sua. Forse è il periodo peggiore che Patrick abbia mai avuto. Ma lui, come sempre ha fatto, anche questa volta reagisce. Raccoglie tre clave da giocoleria, si trucca la faccia da clown, infila un paio di bretelle colorate e un cappello divertente e va a trasmettere allegria a se stesso e agli altri. Ad aspettarlo, i ricoverati alla grande clinica di Lewiston, quella che guardava dalla finestra della scuola di teatro. È proprio alla scuola che ha imparato, cominciando da tre palline, a fare i numeri da saltimbanco. E ora vuole mettere se stesso a servizio di chi ha bisogno di divertirsi. Proprio come fa Patch Adams, il medico interpretato da Robin Williams nell'omonimo film del 1998. Sono Patch. Studio medicina qui. Tu perché vuoi fare il medico? Non voglio aiutare. Noi vogliamo diventare medici per aiutare il prossimo. Il punto è che per diventare medici dobbiamo curare il paziente oltre che la malattia. Dobbiamo tuffarci nelle persone. Per Patrick è un'iniezione quotidiana di buon umore che lo fa star bene. E piano piano risorge dal periodo buio. Si accontenta di piccoli ruoli che gli permettono di vivere e lascia passare gli anni con serenità. Certo che il suo momento prima o poi arriverà. E un giorno, come in un rito scaramantico, decide che è giunta l'ora di rivoluzionare il suo aspetto, per togliersi definitivamente quell'aria da brutto anatroccolo di provincia. La prima cosa da fare è accorciare i capelli, più corti dietro e ai lati. Patrick va dal parrucchiere e intanto, studiandosi allo specchio, decide che è meglio tenere la barba piuttosto incolta, che dà un'aria intellettuale e fa guadagnare fascino. Poi si iscrive in palestra. Infine apre l'armadio e stacca uno a uno i vestiti appesi, li lancia dietro di sé e una volta svuotato l'armadio ne fa un sacco da eliminare. Una volta rifatto anche il guardaroba, il risultato è sorprendente, come racconta lo stesso Dempsey. Figurati che un amico che non mi vedeva da mesi non mi ha riconosciuto. Dopo ogni rinascita comincia una nuova vita. Ed è così anche per il nostro protagonista, a cui il destino finalmente, nel 2004, riserva un'occasione speciale. È una mattina di primavera. C'è quella brezza fresca con cui i più temerari sono già in maniche corte e gli altri hanno ancora un maglione leggero. Patrick è seduto sull'autobus e sta leggendo il giornale. Le notizie sono sempre le stesse. Ogni giorno sembrano la copia del giorno precedente. Il suo vicino di posto, un signore anziano dall'aria felice, non vede l'ora di commentarle. Ma Patrick, che di solito chiacchiera con tutti, viene catturato da un annuncio. Sta per cominciare un nuovo grande show sul canale Fox, una grande rete televisiva americana che il suo proprietario, il magnate dei media Rupert Murdoch, racconta così. Siamo stati molto avanti, abbiamo precorso i tempi, abbiamo visto giusto, prima producendo le migliori serie TV e poi i reality di maggior successo. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che continueremo a fare. Patrick lo sa bene e sa anche che se comincia una nuova serie, di certo ci saranno dei provini. Corre a casa, chiama il suo agente e si fa spiegare bene di cosa si tratta. Lo show vuole essere una specie di giallo ospedaliero in cui i dottori investigano sui sintomi dei pazienti e sulle relative cause. Per intenderci, l'idea è un po' quella di ambientare in corsia avventure parallele a quelle della polizia scientifica di CSI, serie di grandissimo successo. La produzione Fox sta cercando niente meno che il protagonista e non fa trapelare molte indiscrezioni, se non che deve corrispondere alla quintessenza dell'americano. Patrick non ha bisogno di sapere altro, sa già abbastanza. Sa che è americano, che ha sempre subito il fascino dei medici e del loro lavoro e soprattutto sa che è perfetto per quella parte. Suicidal in the soul. Think about it. Cut it out a phone line. Destini Incrociati siamo in America e Patrick Dempsey, attore di piccoli ruoli ma di grandi ambizioni, sta per avere la sua grande occasione. La Fox, canale televisivo all'avanguardia per i contenuti, sta mettendo in piedi una nuova serie TV e cerca il suo protagonista. Si tratta di una serie ospedaliera, con pazienti, medici e cure, ma molto diversa da quelle andate in onda finora, pur di grande successo. Una su tutte? La celeberrima ER, che ha lanciato George Clooney facendolo diventare un divo internazionale. In mezzo allo sterno? Sì. Lama da 10. Accidenti, garze sterili. Che c'è? Una fontana di sangue. Vado a clampare la orca. Cardioplegia in atto. Questa nuova serie è diversa, perché non è il solito medical drama, ma qualcosa di più. Mescola giallo e suspense, ironia e dramma, e ha l'obiettivo di diventare un grande successo. Gli sceneggiatori, il produttore e il regista sono pronti a giudicare, perché la scelta è delicatissima. Il medico attorno a cui tutto deve ruotare deve essere un americano, qualcuno che impersoni un dottore in grado di esaminare le caratteristiche personali dei pazienti e diagnosticare le loro malattie, scoprendo i loro segreti e le loro bugie. Dempsey arriva e si prepara al provino. La schiera di candidati è folta. Quando tocca a lui, va sul palco con il copione arrotolato in mano, più per scaramanzia che per necessità di leggere, e comincia a recitare il pezzo. Sente che sta andando bene finché non viene interrotto dall'entrata di un fattorino che ad alta voce, senza troppo preoccuparsi dell'audizione in corso, consegna un pacco alla giuria, che lo liquida con il solito «le faremo sapere». E incuriosita si mette a guardare il video contenuto nella busta ricevuta. Dempsey non sa che proprio in quel momento sta incrociando l'altro protagonista di oggi. Un incontro quasi irreale, ma che darà una svolta al suo destino. Quel video è un provino che un attore, pur di partecipare a questo casting, ha registrato in Namibia, dove sta girando un film. Nel video l'uomo è seduto su una sedia, nel bagno dell'hotel. L'unico posto con illuminazione sufficiente per le riprese, camera frontale. E improvvisa dei movimenti con un bastone. È inglese, ma il suo accento americano è ineccepibile. Lui è davvero perfetto per la parte del medico protagonista. Il suo nome è Hugh Laurie. Hugh Laurie. Ma da tutti sarà presto conosciuto come Dr. House. Visto? Con questo bastone mi scambiano per un paziente. Mettiti il camice bianco come tutti noi. Non voglio che pensino che sono un medico. Capisci perché la direzione contesta il tuo comportamento? La gente non vuole medici malati. Posso capirlo, a me non piacciono i pazienti sani. Per Dempsey non c'è niente da fare. Il posto gli viene soffiato da Hugh Laurie, futuro Dr. House. Ma ancora non sa che questo gli aprirà nuove porte. Ma chi è il dottor Gregory House? È il primario del reparto di medicina diagnostica, specializzato in nefrologia e infettivologia. Si presenta con un atteggiamento burbero, menefreghista, pigro nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi pazienti, giustificando parzialmente i suoi atteggiamenti con una menomazione della gamba destra che, come suggerito dallo stesso Laurie nel provino, lo costringe a muoversi appoggiato a un bastone. Combatte il dolore con un potente analgesico a base oppiacea chiamato Vicodin, al quale è completamente assuefatto. È musone, misantropo, cinico, come mai nessuna figura sullo schermo è stata. Curare la malattia è il compito del medico. Trattare con i pazienti è quello che manda il medico in depressione. Vogliamo eliminare il contatto umano nella pratica della medicina? Se non parliamo con loro evitiamo di mentirci a vicenda. Il contatto umano è una balla. Diagnosticare malattie rare è la vita del dottor House e nonostante l'apparenza, lui è sensibile, un duro dal cuore tenero. Per certi versi simile a Hugh Laurie, l'uomo che gli ha dato corpo, volto e voce. Hugh Glory, classe 1959, nasce a Oxford, Inghilterra, da una famiglia molto ricca. È il minore di quattro figli e suo padre, come in uno scherzo del destino, è medico. Una curiosità per cui Hugh ha poi dichiarato: mi sento quasi in colpa. Vengo pagato molto di più per essere una versione falsa di mio padre. È solo una battuta, ma che racchiude lo spirito di Lori, divertente, sarcastico. Non a caso già all'università fonda un gruppo comico con l'attrice Emma Thompson, sua fidanzata in quel periodo, e l'amico Stephen Fry, i Cambridge Footlights, che più tardi vengono conosciuti anche dal grande pubblico televisivo attraverso gli sketch della fortunata serie Backheader, che annovera tra i suoi protagonisti anche Rowan Atkinson, per tutti semplicemente Mr. Bean. Divertirsi per Lori è la chiave della vita, come dichiara lui stesso. Io sono uno frivolo, leggero. Mi piace godermi la vita e stare bene. Ridere è la cosa più importante. Lori è eclettico. Campione di canottaggio, ottimo pianista e cantante, doppiatore, scrittore di romanzi, uno dei quali è uscito anche in Italia con il titolo Il venditore di armi, e soprattutto attore comico. Sembra riuscirgli bene tutto quello che fa. E contemporaneamente è un uomo normale, con una moglie, architetto e tre figli. I ruoli che interpreta sono quasi sempre ruoli minori. La figura che gli riesce meglio è quella dell'inglese sopra le righe, comico più che altro, come quando nel 1995 è a fianco di Kate Winslet e Hugh Grant in Ragione e Sentimento, diretto da Ang Lee. Vedo che siete in ottima salute. Grazie, Edward. Stiamo tutte molto bene. Per fortuna abbiamo avuto un tempo molto buono. Ma è vero? Sono lieto di sentirlo. Le strade erano molto asciutte. Posso augurarvi tanta felicità, Edward? Grazie. Lori è un uomo felice e appagato. E quando il suo agente gli propone di fare il provino per diventare Dr. House, lo fa quasi per fargli un piacere. 2004, Namibia. Lori è sul set di Il volo della Fenice, remake dell'omonimo film del 1965, e interpreta Ian, lo scorbutico e irrispettoso dirigente di una compagnia petrolifera che insieme al suo staff precipita nel deserto del Gobi. Di giorno fa caldissimo e la sera tutta la truppa è distrutta, ci si addormenta prima di toccare il letto, ma una sera Lori chiede una mano all'aiuto regista per girare un provino da spedire in America. Non sa niente di quel ruolo per cui è richiesto, sa solo che la serie è ispirata alla rubrica Diagnosi del New York Times e che si basa sulla premessa «Tutti mentono». Si siede su una sedia nel bagno dell'hotel, l'unico posto dotato di luce artificiale, e appena si accende la telecamera si scusa per il suo aspetto trasandato. Dopodiché inizia a recitare e distinto improvvisa con un bastone che trova lì vicino, dimenticato forse da qualcuno. Quando regista, produttori e sceneggiatori vedono il filmato, sono tutti d'accordo. È lui, Dr. House. Non importa se è inglese, il suo accento americano è ineccepibile. Ne dà una spiegazione lo stesso Lori, con la sua solita ironia. Lo so, ho un accento americano e agli inglesi dà fastidio. Ma è perché ho sprecato un'intera gioventù a guardare la loro TV e il loro cinema. Quando il suo agente gli annuncia entusiasta che è stato scelto per essere il dottor Gregory House, Lori è davvero sorpreso e dichiara: quando inizialmente presi in considerazione di interpretare House, non lo ritenni un cambiamento di grande portata. Quello che accade di solito è che fai un episodio pilota e dei pochi che vengono selezionati, circa solo un quarto arrivano al secondo anno. Così pensavo che avrei avuto 3 settimane divertenti. Ma invece questa volta il sarcastico Hugh Glory si sbaglia. È il destino che gli ha dato questa occasione e lui accetta la sfida. Purtroppo per gli altri candidati e quindi per Patrick Dempsey, la parte è stata assegnata e la delusione brucia come una ferita aperta. Dempsey prova in tutti i modi a entrare nella serie e fa il provino per il ruolo del dottor Robert Chase, un ruolo secondario, certo, ma comunque importante. Ma anche in questo caso, per Dempsey, il responso è un fragoroso no, che gli fa rimettere in discussione la sua capacità attoriale, il suo carisma, il suo talento. Proprio lui, che da giovane era così insicuro e nella recitazione ha trovato una svolta dell'esistenza, adesso con 2 rifiuti consecutivi, pensa di smettere definitivamente, di cambiare lavoro. Quello che ancora non sa e che ad aspettarlo c'è il suo futuro. legame a doppio filo, quello che raccontiamo oggi a Destini Incrociati. Un legame tra due attori. Un bell'uomo americano, Patrick Dempsey, deluso da un provino fallito, e un comico inglese tagliente e scettico, Hugh Laurie, che invece ha avuto quella parte e si accinge a diventare Dr. House. Non ci crede granché Hugh Laurie. Non crede che questa sia l'occasione della sua vita. In fondo pensa, non è che l'ennesima serie ambientata in corsia. Invece si sbaglia, perché Dr. House ha soprattutto gli ingredienti del giallo, dell'investigazione, e il suo riferimento principale è la figura di Sherlock Holmes, il celebre detective che recentemente è stato riportato sullo schermo da Robert Downey Jr. e Jude Law, che interpreta il fedele amico e compagno di avventure Watson. Sono molte le similitudini tra Dr. House e Sherlock Holmes. Entrambi studiano dei casi difficili e più sono complicati, più si appassionano. Quello che li interessa è l'aspetto intellettuale della questione, la logica e la ragione, non i sentimentalismi. House, come Holmes, è un tossico. Sperimenta anche la morfina. Vive al numero 221B, lo stesso dell'abitazione di Holmes in Baker Street, e tutti e due usano un bastone. Se c'è un'assonanza tra i due nomi, House e Holmes, la stessa assonanza c'è anche tra i loro unici rispettivi amici, Wilson e Watson. D'altra parte, Arthur Conan Doyle si è ispirato per il personaggio di Sherlock Holmes proprio a un medico di Edimburgo, dove aveva ottenuto un master in chirurgia. La realtà si mescola alla finzione e in qualche modo il cerchio si chiude, dando modo alla critica di parlare della serie in pochissimo tempo come di un prodotto raffinatissimo. Lo sentiamo dalle parole di Leopoldo Damerini, autore del Dizionario dei Telefilm. I telefilm non erano più un sottogenere, una fiction di serie B, ma anzi forse addirittura una settima arte bis. Poi in realtà nel corso degli anni il telefilm è diventato un qualcosa di molto di più, è diventato un fenomeno extragenerazionale, è diventato anche un genere televisivo molto appetibile per quello che riguarda i pubblicitari, è diventato un qualcosa di molto più importante. In questo, senza dubbio, Dr. House ha avuto grandissimo peso, perché fin dalla prima stagione il suo successo è stato travolgente. La serie è stata tra i primi 10 programmi televisivi più seguiti negli Stati Uniti. Distribuito in 66 paesi, Dr. House è stato il programma televisivo più seguito al mondo nel 2008. Ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, 2 Golden Globe, 3 Emmy Award. Non solo, dal punto di vista culturale, la serie televisiva, e più in particolare la figura del protagonista, hanno fornito motivi di riflessione filosofica, etica, religiosa, relativa al campo della medicina e della deontologia. E diversi saggi pubblicati hanno approfondito questo aspetto della serie. Per Hugh Laurie, che ora è uno degli uomini più famosi della Terra e guadagna la bellezza di $400,000 a puntata, la vita non è più la stessa. È pazzesco quello che mi è successo. Non ci credo ancora. Dottor House mi ha cambiato la vita. Sono entrato dentro di lui e lui dentro di me. E pensare che all'inizio non ci credevo. You're unbelievable. Il provino per diventare Dr. House è stata la svolta che il destino ha offerto a Hugh Laurie per stravolgere la sua esistenza. Ma cosa ne è stato di Patrick Dempsey, che non ce l'ha fatta e ha perso per sempre quell'occasione? Il destino, si sa, a volte prende strade tortuose, e in questo caso più che mai. È il 2005 e Patrick si sta facendo una doccia gelata. Gli piace la sera, gli dà la sensazione di sciacquare via anche i cattivi pensieri. E non sono pochi, perché da quando ha mancato la parte di Dr. House è al limite della depressione. Quando suona il telefono non lo sente e sua moglie, nel frattempo si è risposato, deve urlare per fargli aprire la porta del bagno, che in un retaggio di imbarazzo adolescenziale è abituato a chiudere a chiave. Finalmente prende la cornetta e dall'altra parte c'è la notizia che aspettava da una vita. Un produttore, pur avendolo scartato per il ruolo di House, si era appuntato il suo nome e ora vuole che faccia il protagonista di una nuova serie, Grey's Anatomy. Grey's Grey's Anatomy è un celebre manuale medico di anatomia che tutti gli specializzandi devono sapere a memoria. La serie è ancora una volta di genere ospedaliero, ma senza la chiave detective di Dr. House. Semmai qui si pensa ai sentimenti, agli amori in corsia, alle storie umane di vita. E il ruolo che deve interpretare Dempsey è quello del fascinoso playboy dottor Derek Shepherd. Dempsey deve dare una risposta in fretta, perché le riprese, già in ritardo, stanno per cominciare. Lui naturalmente non ci pensa due volte. Ha sempre amato il lavoro di medico, ha sempre amato recitare. E questo può essere il grande riscatto dopo lo smacco per il provino per House. Ma a volte la realtà supera i sogni. In poco tempo la serie entra nel cuore di tutti, ha un successo impetuoso fino a diventare un vero e proprio cult. La rete ci crede così tanto che una puntata la manda in onda dopo il Super Bowl, l'evento sportivo più seguito in America. E Grey's Anatomy non delude, portandosi a casa quasi 40 milioni di telespettatori, praticamente un record. Fioccano i premi e Patrick Dempsey, il dottor sogno, in Italia dottor stranamore, diventa il sogno proibito delle donne di tutto il mondo. Proprio lui, così timido e bruttino da piccolo, adesso è un sex symbol di portata mondiale, richiesto ovunque e desiderato ovunque. Un riscatto che va ben oltre quello che Dempsey potesse solo immaginare. Se vuoi rompere con me così da poter uscire con altre donne, fallo e basta. Non dirmi che hai conosciuto un'altra donna, facciamola finita se è quello che vuoi. Non posso. Certo che puoi. Ecco come si fa. Meredith, non voglio vederti mai più. Meredith, io non ti amo più. Meredith, io ti amo. A chi accusa la serie di essere troppo inventata e non attaccata alla realtà, i milioni di sostenitori nel mondo rispondono che sognare con Grey's Anatomy è proprio quello che vogliono. E mentre il dottor Shepherd, languido e fascinoso, glielo permette, dottor House, con il suo solito cinismo, ribatte: come fai a dire cosa è reale e cosa non lo è? Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.